You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Buonasera a tutti, benvenuti a questo appuntamento di Radio 24 con l'identità, la migrazione e la cucina. Ogni sabato sera ne parliamo con un ospite. Insomma, questo pezzo del film Indovina chi viene a cena, di parecchio tempo fa, degli anni 60 in America, questa situazione di una coppia mista che ha delle difficoltà perché la famiglia è contraria, è una situazione che appartiene al passato sicuramente, ma che incredibilmente forse in Italia appartiene anche al presente. Saluto intanto il nostro ospite Antonio Di Chele Di Stefano, buonasera. Buonasera. È così, è ancora così difficile. Nel tuo romanzo Fuori piove, dentro pure Passo a prenderti, pubblicato da Mondadori da pochi giorni, sembrerebbe proprio una situazione ancora attuale. Sì, siamo ancora negli anni 70, solo che magari lì erano un po' più avanti perché ci hanno fatto pure un film bello. Invece ultimamente, negli ultimi anni, hanno fatto solo film brutti sulla questione. Tu invece hai fatto un libro bello, un libro giovane, fresco, e anche perché ha avuto un grande successo. È stato autopubblicato, strascaricato da internet da un sacco di ragazzi, e quindi Mondadori insomma, ha capito che poteva essere un buon libro e ha deciso di pubblicarlo. Quindi già un gran successo. Ed è una storia vera, è così Antonio? Sì, è una storia vera dell'anno scorso. Dai, io ti giuro, quando prima di conoscere la mia ex non pensavo mi potesse mai accadere una cosa del genere. Era capitata ad un mio amico, perché lui era albanese e la madre non voleva, però io pensavo, boh, a me è impossibile, sono simpatico, quindi riuscirò a fare sempre colpo sui genitori. Invece no, la mia simpatia non ha fatto colpo alla mia pelle, però fa ridere, sicuramente, a me oggi fa ridere per come si è poi evoluta, perché adesso c'è il mio cartonato fuori dalle librerie e quindi sua madre è obbligata a vedere la mia faccia ovunque, perché lei non si è mai visti. Tu hai genitori che vengono dall'Angola, è stata questa la difficoltà e tu lo dici proprio esplicitamente nel libro. Il libro parla di questa storia d'amore, ma parla anche tanto della situazione di persone che hanno la pelle di un altro colore in Italia. Il problema non è tanto legato alla pelle, il problema è legato tanto all'educazione, no? Io molte volte quando vado nelle scuole vedo genitori che parlano ai bambini piccoli e dicono tipo, un bambino chiede al genitore, papà ma perché il bambino è nero, dico una cavolata, e il papà dice non si dice, lascia stare. Se invece il genitore dicesse perché al mondo, cioè ci sono vari continenti, il bambino crescerebbe con un'altra mentalità. Invece no, il bambino già cresce col pensiero che c'è qualcosa di sbagliato. Io non credo che sia un problema di pelle, tanto vengono discriminati i neri come vengono discriminati i robusti e gli omosessuali allo stesso modo, nella stessa maniera, solo che magari il nero fa più notizia perché comunque si è creato poi un argomento di sensi di colpa nel tempo. Io credo che l'unico modo per combatterlo sia l'educazione comunque, cioè i genitori e i professori devono fare dei corsi per imparare a educare i figli. E credo che questo libro, molti mi dicono, è un libro per ragazzi, ma no, è un libro per i genitori e spero che molti genitori lo leggano. Odio tante cose da quando ti conosco e non ne conosco neanche il perché, ma lo intuisco. Odio il mio nome solo senza il tuo, ogni fottuto addio. Io odio quando ti odi e mi allontani, perché hai delle isole negli occhi e il dolore più profondo. Riposa almeno un'ora solo se ti incontro. E ti amo e con le mani dico quello che non so. E tu mi ami. Trama sintetica di una giornata storica. Dal tuo libro una frase che mi ha colpito: essere veri non è facile in una società in cui i bianchi distribuiscono la libertà. Ma sai, questa frase è una frase che mi è venuta subito dopo aver letto un libro di Stokely Carmichael, che era uno scrittore, che è stato uno dei fondatori del Black Panther. Io credo questo, il fatto che la libertà venga distribuita da chi non subisce le cose, no? Molte volte ci sono persone che parlano per persone che aprono associazioni contro il razzismo, ma non hanno mai subito nessuna forma di razzismo. Credo questo, che ci sia stata raccontata la storia in modo diverso, in modo sbagliato. Dici, vorrei poter vedere l'Africa brillare come i diamanti che le vengono sottratti. Sì. Mi tratti come l'Africa, prendi il meglio di me e poi te ne vai. Questo è colonialismo, insomma, tu parli del colonialismo infilandolo in una storia d'amore, parli di tante cose, di un papà operaio, di una mamma che fa fatica e che però ti impone un'educazione anche bella forte, no? Sì, sì, per fortuna. Però vedi, la cosa del colonialismo, queste sono cose che ho cercato di mettere perché volevo comunque lasciare un piccolo messaggio alle persone che magari la storia non la conoscono tutta, oppure che magari si sono limitati al fatto dell'africano che viene in Italia e si dimenticano quello che poi c'è stato. Questo è un modo per me per non educare, ma per dare consigli, per indirizzare. Quelle due frasi sono le mie frasi preferite del libro, per questo l'ho messa all'inizio e non all'interno del libro, perché volevo che le persone quando lo leggessero rimanessero quelle frasi impresse. Vorrei poter vedere l'Africa brillare come i diamanti che le vengono sottratti, è una frase legata al territorio da dove vengono i miei genitori. Dall'Angola. Angola, Congo, sì, che è il regno del Congo, e lì proprio c'è, questa è proprio la verità, nel senso mi piacerebbe tantissimo vedere quei paesi brillare come i diamanti che poi vengono sottratti. Speriamo un giorno. Un territorio tra l'altro ricchissimo, c'è un libro bellissimo, l'avrai letto, Congo, che gira in questi mesi, in queste settimane, che parla proprio di quel territorio e delle cose preziose, non solo i diamanti, ma il coltan. Sì, il coltan, la guerra del coltan, sì, è vero, è vero. Vedi, però queste cose non si raccontano mai, no? C'è una grandissima disinformazione, molti ragazzi non sanno nemmeno cos'è il coltan, però hanno una televisione in casa, hanno tutti l'iPhone, questo a me dispiace tantissimo. Il coltan è un minerale, per chi non lo sapesse, okay, che serve proprio a far andare appunto tutte queste strumentazioni che tu dicevi, quelle che noi usiamo tutti i giorni. Tu che legame hai con quest'Africa? Tu sei di Ravenna, sei un ragazzo, insomma, anche sentendoti parlare italianissimo, però hai questo legame forte, ci sei mai stato? Un legame fortissimo, un po' come quei legami di quelle madri che, sai, io ho sempre visto l'Africa come una madre che ti lascia quando sei un bambino, ma che ti lascia le lettere sotto il letto di notte, no? E quindi tu hai questo legame con tua madre, un giorno vorresti vederla, un giorno vorresti stare con lei. Ecco, credo questo. Io dico sempre, anche nel libro, dico l'Africa mi ha aiutato tantissimo. Quando ero un ragazzino magari mi discriminavano, io nell'Africa trovavo un rifugio perché camminavo per strada e qualsiasi africano, ma anche sudamericano, solo perché magari era nero, mi salutava e questa cosa mi faceva stare bene. Io non ho mai sentito un africano dirmi voi, noi, ha sempre detto noi, e io questa cosa da bambino mi faceva veramente sentire a casa, in qualsiasi posto. E quindi sì, c'è un grandissimo legame, un legame di riconoscenza. Ecco, io sono un panafricano. Lo dico sempre, i panafricani sono quelli che sono convinti che tutti i neri dovrebbero tornare in Africa, no? Ecco, io sono così, io sono convinto che un giorno dovremmo tornare tutti, perché dobbiamo riscrivere una storia che poi ci è stata negata. Colonia portoghese per secoli, l'Angola presenta una cucina che ha risentito di tali influenze. L'utilizzo di certe spezie e di certi metodi di cottura, ad esempio, è stato determinato dalla presenza del Portogallo. Tuttavia, anche altre cucine europee e asiatiche hanno segnato la cultura culinaria del paese. Le tribù Buchiman, per citarne alcune, non hanno modificato le proprie abitudini per 1000 anni. E anche gli altri gruppi etnici hanno piatti propri. La cucina angolese, in linea di massima, è piuttosto saporita e aromatica. Gli ingredienti più utilizzati comprendono pesce, pollo, farina di manioca, ocra e altri tipi di verdure. Il funge o funge è un cibo immancabile in Angola. si prepara con farina di manioca e di solito si serve con pollo, pesce, fagioli o ortaggi. Il caruru è una pietanza di origine brasiliana a base di ocra e gamberetti. Il pollo piripiri è originario dell'Angola e del Mozambico e venne adattato come piatto portoghese. La pietanza si realizza facendo marinare il pollo nel peperoncino, chiamato appunto piripiri in Angola, prima di grigliarlo. La marinatura può avvenire anche nell'olio, nella paprika, nel cilantro, nel prezzemolo, nel succo di limone o di lime, nell'aceto o nel vino. Il vino di palma, insieme alla birra di mais, è una popolare bevanda alcolica dell'Angola. Realizzato con estratto di palma, è caratterizzato da un sapore forte dovuto alla fermentazione. Antonio, ci fermiamo brevemente e torniamo a parlare con te subito dopo. Digital Radio Flash. Ciao, sono Paola. Per ascoltare la radio in Digital Radio, devo pagare un abbonamento? No, niente abbonamento né canone. Basta comprare una radio o un'autoradio nuova, oppure adatti quella che hai già. E poi, è gratis. Molti nuovi modelli di auto hanno il ricevitore incorporato di serie. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Mezzanotte i passanti si tengono a distanza. Chiara aspetta con le quattro frecce. Sara che aspetta di cadere incendiando il cielo come un meteorite. E pensa, sei più bella adesso mentre sfiorisci, sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti di ritorno dai tuoi viaggi di 4 anni. E pensa, guarda qui, ci sono tutti i miei punti deboli. Guardami, mi lascio dietro degli spazi bianchi. Forse si trattava di accettare la vita come una festa, come ha visto in certi posti dell'Africa. Torniamo a parlare con Antonio Di Chele Di Stefano, scrittore, con questo romanzo Fuori piove, dentro pure, passo a prenderti, pubblicato da Mondadori dopo un grande successo che ha avuto nell'autopubblicazione su internet. Antonio, stavamo parlando appunto dell'Africa, abbiamo messo questa musica, ho messo questa musica perché so che ti piace, anche a me piace molto. Luci della centrale elettrica, e anche perché il tuo libro è intervallato da una serie di canzoni, questa playlist con la quale molti si identificheranno, no? C'è stato un grandissimo successo. Quanti download hai avuto quando ti sei pubblicato, autopubblicato? Ma io credo circa 20.000. Un'altra giornata erano 18.000 complessivi tra iTunes, Amazon, Playbooks, tutte le varie cose. 20.000 in 3 mesi. E poi Mondadori ti ha fatto una telefonata, com'è andata? No, non mi ha fatto una telefonata, ma è venuto Antonio Riccardi ad una presentazione a Mantova, mi ha lasciato il suo biglietto da visita. Io non avevo ancora ben capito cosa voleva, e invece dopo ho capito che era Mondadori che voleva pubblicare il mio libro, molto contento, e poi l'abbiamo pubblicato e adesso la speranza è quella di vendere. Quanti anni hai? Sono 22. Quindi qual è la prospettiva? Tu volevi fare lo scrittore, vuoi fare lo scrittore? Ma io adesso, oggi voglio fare lo scrittore, perché è un lavoro bello, e un giorno mi piacerebbe aprire un teatro. A livello musicale invece io anche quei pezzi lì li ho messi perché io credo che ogni volta che una persona si espone ha una responsabilità. Io credo che quella musica a me piace tantissimo e mi piacerebbe tanto che molti ragazzi ascoltassero quei pezzi e si ritrovassero. Molti ragazzi mi scrivono, sai che io Di Martino non lo conoscevo, altri, sai che questo pezzo di D'André non lo conoscevo. Per me è molto importante il fatto di dare dei consigli che per me possono essere validi, e poi anche una questione di riconoscenza nei confronti di questi artisti che a me mi hanno cresciuto tantissimo. Beh, alcuni li sentiremo insomma durante la puntata. Torniamo all'Africa, dicevamo la terra dei tuoi genitori. Tu ci sei mai stato? Io non ci sono mai stato, ci andrò quest'anno per la prima volta, dopo tantissimo tempo finalmente ci andrò, perché comunque a me piacerebbe tantissimo andarci a vivere. Tutti mi dicono non ce la faresti mai, altri mi dicono torneresti, però voglio vedere, voglio andarci a vivere, perché comunque non lo so, qualcosa mi dice che casa mia è lì. Tua madre anche è lì, no? Sì, mia mamma è lì da 4 anni, partita nel 2010, quando comunque si entrava nel grosso periodo della crisi, ha detto no, io vado via perché comunque qua non ce la faccio più, io condivido in pieno. E lei adesso lì sta bene, abbronzata, che poi suona male, abbronzata, lei era proprio abbronzata, è abbronzata, tutta tranquilla. Tutta e ti manca un sacco, tu lo dici spesso che ti manca molto questa figura. Sì, sì, manca molto perché comunque era la mia migliore amica. Sai, vivere, cioè nel senso, questo è un periodo bello, cioè nel senso accendi la televisione, magari c'è la possibilità di vedermi, altre cose. Quando ero piccolo mi diceva sempre tu da grande farai lo scrittore o qualcosa di simile. Della primavera finalmente in arrivo del suo treno, al binario uno pensa, sarà sei ancora più bella la sera, quando sei stanchissima, sei ancora nella mia memoria interna, sei l'interpretazione dei sogni che non riesco a ricordarmi. E forse si trattava di dimenticare tutto come in un dopoguerra, e di mettersi a ballare fuori dai bar come ha visto in certi posti dell'ex Jugoslavia. Forse si tratta di fabbricare quello che verrà, con materiali fragili e preziosi senza sapere come si fa. Finché non ti dicono le cose tu non le capisci, cioè io avevo un amico quando ero piccolo che lui non sapeva che io ero nero, cioè lui, per lui io ero Antonio e basta. Una volta la prof parlando fa: Antonio, tu che sei nero? E il mio amico si è preso paura, ho detto come Antonio è nero? E ti è rimasto male. Ecco, io uguale, nel senso, quello sporco negro, cioè, non la vedevo come tanto un'offesa etnica, razzista. La vedevo un'offesa al mio igiene, perché mia madre tutti i giorni mi diceva lavati, pulisciti, e quindi ci rimanevo male. Dicevo ragazzi, non chiamatemi sporco negro davanti a mia madre perché poi è un casino, perché davvero non le facevo uscire, se no. Viene fuori anche la difficoltà di una vita non agiata da piccoli nel tuo libro. No, io lo dico sempre, io sono mai stato in Africa perché non avevamo i soldi, cioè non avevamo le possibilità per andare in Africa, costa parecchio andarci, 1.000 euro e passa. Noi, mia madre quando era in Angola aveva proprietà, aveva un lavoro buono, mio padre faceva il militare, e in Africa, dico Angola, in Angola quando fai il militare comunque hai dei privilegi, e quindi tu vieni qui e ti trovi invece tutto catapultato, il tuo diploma non va bene, la lingua non la sai, in un paese che comunque è difficile, dove nessuno ti aiuta ad integrarti, io la vedevo che lei soffriva per questo. E poi anche le questioni economiche, noi ci hanno sfruttato parecchie volte, però noi non l'abbiamo mai vissuta male, perché comunque mia madre è sempre stata una persona positiva, di fede, e grazie a lei comunque abbiamo vissuto sempre al meglio le cose. Senti, leggiamo un pezzetto del tuo libro, perché poi le chiacchiere stanno a zero, la tua scrittura è bella, parla da sé. Quando ci staccavano la luce andavo a letto presto, non dormivo perché la voce di papà me lo impediva. Lui parlava sempre fino a tardi, consapevole che mamma prestava sempre attenzione a tutti. Dobbiamo andarcene via da qui, facciamo come zio Dixon che è andato a vivere in Inghilterra, qui non c'è futuro. Non siamo mai andati da nessuna parte però, la nostra macchina non aveva neanche l'assicurazione. Papà si arrabbiò parecchio quando mi sentì per la prima volta pronunciare il termine negro. In questa casa questa parola non si usa, nel mio paese sono morte tante persone per quella definizione, non è uno scherzo. Come dicevo prima, riesci, perché il libro è bello, è leggibile, è godibile, è fresco, a passare delle cose pesanti, forti, attraverso una scrittura a volte ironica, a volte scanzonata. E io credo che sia questo il successo, il perché del tuo successo, no? Sì, perché io comunque scrivo come parlo, quindi scrivo anche così. Non voglio fare cose pesanti perché io non leggo libri pesanti, io leggo molto piano, io leggo libri molto veloci. Io sai, anche il prossimo libro che sto scrivendo, che ci sto provando, non voglio diventare uno scrittore pesante, non voglio strutturarmi. E tu parli anche del fenomeno Ballotelli, no? Mario Ballotelli, in effetti, è stato un momento, quello del suo successo, del suo trionfo, nel quale tanti bambini neri in Italia si sono identificati, no? Finalmente c'era un eroe, no? Da guardare... con ammirazione. Io me li ricordo i ragazzini in cortile che giocavano a calcio, sì. Dicevano io sono Mario Balotelli. Vedi, ecco, questo mi piace tantissimo questa cosa, cioè mi fa capire la forza che c'è nelle nuove generazioni, cioè che Balotelli ti fa capire quanta forza c'è in Italia. Molte volte si fa finta di non vedere che l'immigrazione è una forza, si fa finta di non vedere che la generazione nuova, quella dei figli degli immigrati, sia una forza, anzi si parla molte volte come se fosse un problema. Invece ti faccio un esempio: quando Balotelli giocava a calcio nella nazionale italiana con gli europei, faceva tantissimi ascolti perché c'erano anche quegli immigrati, quelle nuove generazioni che guardavano la televisione. Le maglie di Balotelli venivano vendute tanto perché c'erano quelle nuove generazioni che compravano, no? Molte volte e lui se ne rende conto, se ne è reso conto del afflato simbolico che aveva anche. No, io a lui li voglio bene, anche se non lo conosco, li voglio tantissimo bene, perché comunque anche per me è stata una grossissima speranza. Però ricordo che non se ne è reso conto, perché se ne fosse reso conto avrebbe avuto più responsabilità, sarebbe stata una persona più responsabile. Cioè, lui per me non ha capito che se sbagliava lui, in un paese come questo, non sbagliava solo lui, ma sbagliavo anch'io, ma sbagliava anche mio nipote e anche mio padre. I'm in love with you, but this ain't the honeymoon. Past the infatuation phase, right in the thick of love. At times we get sick of love. It seems like we argue every day. Senti, tu ci hai raccontato all'inizio che è una storia autobiografica questa, di questo rapporto d'amore con questa ragazza e queste difficoltà create dalla famiglia. Sai, all'inizio era amore, tantissimo, e si capisce anche da come racconto. Poi io non racconto quello che è capitato dopo, e dopo era stare insieme per una giusta causa. Eravamo un po' come l'UNICEF, eravamo diventati quelli che stanno insieme per dimostrare ai genitori che... E a me dispiace, perché comunque veramente non si può vivere un amore come l'abbiamo vissuto noi. Cioè, noi non siamo mai andati al cinema, non siamo mai andati in centro a fare una passeggiata, perché ci potevamo vedere, perché tornava a casa e magari le metteva le mani addosso perché è stata con me. Però sai, io credo comunque c'è stato il riscatto, il libro è uscito, e credo che se mai un genitore domani dovesse fare una cosa del genere, credo che il figlio prenderebbe il libro: leggiti questo libro, speriamo, perché comunque, come dicevo prima, è un libro che va letto dai genitori e non dai figli, perché sono i genitori che educano i figli. Sometimes it's heaven sent, then we head back to hell again. We kiss, then we make up on the way. I hang up, you call, we rise and we fall, and we feel like just walking away. As our love advances, we take second chances. Though it's not a fantasy, I still want you to stay. We're just ordinary people. We don't know which way to go. Cause we're ordinary people. Maybe we should take it slow. Questa è una trasmissione che parte dall'idea che attraverso la cucina, il fatto di stare assieme, di ricordare dei sapori, dei gusti, si possa parlare di identità. Ci racconti qual è il tuo piatto preferito? Allora io mangio solo caramelle, però il mio piatto preferito io credo sia la pizza con patatine fritte e salsiccia. Ah, però, molto Italia, no? Molto. Giustamente nel tuo piatto. Ci sono degli odori, dei profumi, delle spezie, sì, che ti ricordano invece la tua mamma e quindi probabilmente anche l'Angola. Ti dirò di no, ci sono, comunque io mangio molti piatti africani in generale, Senegal, Nigeria, e uno dei miei piatti africani che mi piace di più si chiama Jebu Yap, un piatto senegalese a base di carne, carote, riso. Ed è buonissimo, io ti consiglio di mangiarlo perché è qualcosa di fantastico, la cucina senegalese è buonissima. Io sono cresciuto con tanti ragazzi senegalesi, perché a Ravenna ce ne sono tanti, perché c'è il mare e l'immigrazione, devo comprare, no? E quindi io a mezzogiorno dopo scuola mangiavo sempre con loro, e quindi Jebu Yap. sposto via la tenda, cielo grigio piombo, io non lascio che mi prenda la nostalgia che sale lentamente come mai. Io penso a te, mi chiedo adesso dove sei, cosa fai, chissà se tu avrai mai pensato a me, al nostro fuoco che bruciava mo' e cenere. Ma tutto passa piano, eppure se fa strano io sorrido perché so che oggi non ti chiamerò. Quel che viene venga mi sta bene, quel che è stato è già passato, e mo' è passato se lo tiene, piove già da un tot, la pioggia bagna la mia pelle ma mi asciugherò, perché so che il tempo è ciclico e so che un po' di tempo è quello che ci vuole, mentre un guaglione sta scacciando il male, sta aspettando il sole. Oggi non c'è sole intorno a me, salva mia, risplendi e scaldami, voglio sole. Il maggior pregio secondo me di questo libro è che sa dire cose profonde con leggerezza. Così come sapeva dire cose profonde, con leggerezza, Fabio Cantadori, grande professionista, grande amico, che ci ha lasciato una settimana fa. E questa puntata è dedicata a lui e anche la ricetta di oggi è dedicata a lui. Alla tua, Fabio. Il Mojito è un cocktail dissetante e fresco, la bevanda regina dell'estate. Di origine cubana, pare sia stato creato nel famoso bar La Botteghita del Medio a L'Avana, il mojito deve probabilmente il suo nome al mojo, condimento cubano usato per la marinatura. Secondo una leggenda, invece, mojo sarebbe una parola voodoo che significa incantesimo. Ingredienti: 50 ml di rum bianco, 2 cucchiai di zucchero di canna, una manciata di foglie di menta, il succo di un lime, ghiaccio e acqua gasata quanto basta. Versate in un bicchiere alto lo zucchero, la menta e il succo di lime. Mescolate delicatamente in modo da liberare l'aroma della menta. Spaccate qualche cubetto di ghiaccio con un pestello e riempite il tumbler. Versate il rum, l'acqua frizzante, quindi mescolate con la cannuccia e decorate con qualche fogliolina di menta. Gli ingredienti devono mescolarsi, non schiacciarsi. La menta troppo pestata, infatti, rilascia un aroma troppo amaro, che potrebbe compromettere il gusto del mojito. La ricetta originale prevede l'uso dell'acqua frizzante. Per dare un sapore più dolce e gradevole, però, sempre più spesso l'acqua è sostituita con la soda. Il mojito, inoltre, può essere preparato con rum scuro o con un mix di rum bianco e scuro. Grazie a tutti voi per essere stati all'ascolto di questa puntata. Io ringrazio in regia per il prezioso lavoro Gianmarco Ferronato. Ringrazio anche Mario Nutarelli per aver letto la nostra scheda. E grazie al nostro ospite di questa sera, che era Antonio Di Chele Di Stefano. In bocca al lupo per il tuo romanzo. Grazie mille. Da Valentina Furlanetto è tutto. Vi aspetto sabato prossimo. Buona serata. You've got to give a little, that's the glory of love.